Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Migliaia di persone ieri sera sono scese in strada a Tunisi per manifestare contro il terrorismo dopo l'attacco costato oltre 20 morti e 50 feriti avvenuto ieri a mezzogiorno, quando un commando di 5 uomini, non è ancora chiaro se dell'ISIS o di Ansar al-Sharia, ha tentato l'irruzione in Parlamento, impegnato a discutere una legge antiterrorismo, per poi entrare nel vicino museo del Bardo e tenere in ostaggio centinaia di turisti fino al blitz dei corpi speciali 2 ore dopo. I turisti italiani coinvolti nell'attentato di ieri a Tunisi sono passeggeri di 2 navi da crociera MSC Splendida e Costa Fascinosa che nella notte hanno lasciato il porto della città nordafricana, dove invece questa mattina è arrivato... Non ho al momento informazioni da aggiungere a quanto stanno già dicendo, informando i nostri giornali, quanto potete leggere in rete, quanto vedrete nei giorni successivi rispetto all'attentato di Tunisi. Poi ci sono alcuni punti su cui vorrei convogliare questa mattina le vostre riflessioni. Quando si parla di terrorismo di matrice internazionale si pensa sempre a qualcosa di lontano, per quanto noi siamo emotivamente e facilmente capaci, possibili in quanto esseri umani, a provare commozione, partecipazione e condivisione rispetto ai luoghi, alle persone colpite via via, che vediamo in televisione, lo vediamo nei momenti cruciali. Oggi è un mondo che è ripreso a tempo reale, quindi come gli attentatori francesi li abbiamo visti agire, sparare per strada, giustiziare una persona sul marciapiede, pure i terroristi del museo del Bardo li abbiamo visti agire, anche se non loro direttamente. Abbiamo visto l'esito a tempo reale della loro sparatoria, del loro attacco, del loro gesto terroristico nei confronti delle vittime o di alcune delle vittime o delle potenziali vittime. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto veramente che la chiave profonda del terrorismo colpisce in maniera indiscriminata e colpisce chiunque. Abbiamo visto correre lungo le scale di quel museo pieno di mosaici romani signori di una certa età, quelli che Danilo Masotti chiama gli umarels, degli umarel che correvano con le loro signore accanto, arrancavano su quegli scalini e dietro c'erano dei baldi robusti e impavidi giovani che sparavano loro addosso con dei fucili mitragliatori. Ho visto un signore correre, scansarsi, farsi largo fra la folla, buttarsi per terra. Poi ho visto ieri sera in televisione le prime interviste alle vittime. Bruno Vespera è riuscito a mandare una sua giornalista nell'ospedale dove era ricoverata una delle signore ferite. E vedo una signora ferita, anziana, magrolina, con le braccia scarne, molto ben curata, sorridente, piena di pecette, di fasce, di sistemi di trazione, che dice adesso mi opereranno, mi salveranno. E penso, come si fa a sparare addosso a una vecchietta? Sembra l'apoteosi del gesto che implica crudeltà gratuita. Beh, questo è il terrorismo. Il terrorismo non si fa scrupolo, qualunque matrice sia del terrorismo. Il terrorismo colpisce chiunque. Chiunque può essere nell'occhio del terrorista. E in un terrorismo che ormai sarebbe folle pensare che appartenga ad altri che non a noi, anche proprio per contiguità geografiche, qual è il pensiero che vi ha attraversato questa mattina? Riuscite ancora a pensare come qualcosa che tocchi altre persone, che non tocchi voi, perché non siete credenti, non andate in giro col crocifisso al collo, ve ne interessa nulla di quello che accade, non state con gli americani, ma non state nemmeno con qualunque tipo di punto di vista radicale, insomma vi fate i fatti vostri, dice, mi faccio i fatti miei e questo non mi interessa. Siete convinti che possiamo dirci fuori da questa vicenda? O abbiamo la consapevolezza di essere veramente tutti in guerra? 800 24 0024. È difficile da spiegare, stavamo visitando il museo, all'improvviso abbiamo sentito dei rumori molto forti e all'inizio abbiamo pensato che fosse caduta qualche statua, poi piano piano abbiamo cominciato a realizzare che quei rumori erano degli spari, Eravamo lì, noi quattro, e abbiamo incontrato un'altra coppia con dei bambini. Non sapevamo cosa fare. Eravamo all'ultimo piano, non sapevamo cosa fare, ci siamo nascosti. Dopo un po' sono ripartiti gli spari. C'era una guida in una stanza, nella stanza dei mosaici, che ci ha fatto entrare. Siamo stati lì per circa un'ora, seduti a terra senza muoverci, finché non è arrivata la polizia. A quel punto ci hanno detto correte, correte, uscite, veloci. Dopo ci hanno portato alle baracche militari. Questa è una signora francese, anche lei imbarcata, probabilmente una nave da crociera. La nave era la Costa Fascinosa. Stamattina i giornali facevano questa sorta di singolare punto di collisione fra la Costa Concordia e la Costa Fascinosa, due navi legate comunque a eventi disastrosi. C'era lo stesso pianista, la stessa persona che suonava il pianoforte sul ponte. Queste sono delle notizie che venivano diffuse dai giornali, che casualmente era sulla Costa Concordia e sulla Costa Fascinosa. Perché sottolineo il fatto della nave da crociera? Perché la nave da crociera è il luogo della delizia artificiale, dell'ultimo approdo, quando le persone ormai sono tranquille, sono in pensione, possono godersi la vita, una vita di fatiche, fanno una crociera. La crociera è l'idea di un grande lusso, di una grande cornucopia di piaceri, ma in realtà è qualcosa che si possono più o meno permettere tutti, e si viaggia finalmente, si scende nei porti, si fa la visita guidata, e per la prima volta ci si rende conto che anche questo lecito e innocente passatempo per pensionati è sottoposto a qualche rischio. Carlo, buongiorno. Buongiorno, volevo solo chiarire che cos'è il terrorismo, che non lo so di preciso bene neanch'io. Il terrorismo, se è ammazzare della gente inerme, allora bisognerebbe anche considerare cosa abbiamo fatto noi e tutte le alleanze occidentali negli ultimi anni. Ma che c'entra adesso questo, scusi? C'entra perché l'ISIS e tutte queste formazioni estremiste esistono, che prima non c'erano, in quanto noi abbiamo destabilizzato, bombardando e facendo un sacco di cose, tutti quei paesi. Ho capito, no, mi scusi, no, io perché non è che voglio impedirle di esprimere il suo parere, ma in questo momento, scusi, la domanda era un'altra. Vi state rendendo conto, al di là delle radici, del perché, del per come, lecito, giusto, non metto in dubbio quello che lei dice, è il fatto che ormai il più inerme dei nostri cittadini, quindi il pensionato, il bambino, la famiglia in vacanza, si deve cominciare a rendere conto che siamo in una situazione di allarme. Questo era il mio senso. Poi, se questo allarme è determinato dai cattivi che hanno fomentato i terroristi, mi sta bene, oppure se sono... No, ma non è questione cattivi, è questione che se uno va a fare una guerra, come hanno fatto anche ultimamente tutti i paesi del Nord Africa, e destabilizza una regione, è chiaro che poi deve anche pensare che poi ci saranno solo queste armate. Ma secondo lei la signora anziana che ieri sta sul lettino smitragliata da un terrorista, questo ragionamento le dà sollievo o ma le dava... Assolutamente no, dà sollievo a tutti quei morti ammazzati, bombardati che abbiamo fatto noi, gli americani, e l'accidente che se li porti. Cioè, se andiamo in un posto dove c'è o Saddam o Gheddafi o chi vuoi tu, li bombardiamo, ammazziamo tutte le popolazioni inerme come la vecchietta, dopodiché non abbiamo nessun ce lo dobbiamo aspettare. Questo è un discorso che, però, vede, vorrei farle capire, non voglio limitare la possibilità di esprimersi con dei fantascenari o degli scenari realistici e concreti di politica internazionale, ma è possibile che l'atteggiamento primo di fronte a una domanda di percezione epidermica di una situazione di allarme ci sia la giustificazione, dice ma sa, ce lo siamo aspettati, ok, ce lo siamo aspettati, le do ragione, e adesso? Adesso esiste Assad in Siria. Adesso già non è più il nemico pubblico come prima. Andiamo, destabilizziamo questa regione utilizzando tutti questi delinquenti sanguinari, perché lei sa che la Clinton ha ammesso che l'ISIS è stato finanziato dagli Stati Uniti. Vabbè, Carlo, non ci siamo. Siamo ancora una volta, mi scusi, non se la prenda male, ma abbiamo virato da il commissario tecnico che stava in tutti i bar all'esperto di situazioni politiche interne, all'esperto di crisi internazionali. Mi sta bene il suo punto di vista, volevo portarvi su un piano diverso nel poco tempo che ho a disposizione, volevo portarvi a riflettere se avvertite sulla vostra pelle un senso generale che qualcosa stia cambiando, se non è servito nemmeno vedere la signora anziana torinese in un lettino con gli ori al collo delle comunioni di tanti bambini o regalucci del marito che gli ha fatto tanti anni fa, messa sul letto, non capisce perché qualcuno gli spara addosso. Ugo. Allora guardi, io la penso in maniera molto differente dal signore precedente. non vado a scavare cosa abbiamo fatto, cosa non abbiamo fatto. Io le dico solamente che 70 anni fa non si sarebbero nemmeno sognati di tirare giù le torri gemelle, ha capito? E non si sarebbero nemmeno sognati adesso di fare degli attentati. Io ho già prenotato una crociera disdetta. Lei, ecco, dire, questo, no? Questo è il punto che mi interessa, Ugo. Fermo un attimo la sua lettura di politica internazionale. Lei aveva prenotato una crociera? Certo. Per andare dove? Sarebbe la undicesima, quindi se figuri lei. Beh, passava per questo tipo di percorso? Sì, fermava... sì, esatto. E qual sì, è quella che poi dove va? Qual è il percorso Tunisi, questa crociera? Tunisi, Baleari, Marsiglia... Savona, adesso non gliele dico in ordine, non mi ricordo. Ecco, questa crociera ne ha fatte molte, quindi è una crociera, diciamo, abbastanza alla portata delle condizioni economiche medie. Sì, assolutamente. E oggi ha rinunciato alla crociera. Sì, per forza. Fermola. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ti ho voluto far ascoltare, Bruno, perché mi interessa, visto che tu sei un osservatore duplice, sia delle reazioni della gente cosiddetta comune, sia di quello che sta accadendo in rete rispetto a questi fenomeni, letti da una mediazione giornalistica, divulgativa, ma c'è sempre qualcosa dietro. Cosa dici di questa prima impressione? Ribadisce, secondo me, un concetto, siamo già detti, gli italiani sono già diventati degli esperti in antiterrorismo. Ma siamo diventati tutti esperti in antiterrorismo, visto che questa tendenza è alimentata dai talk show televisivi dove si fa disinformazione. Io invito tutti a smettere di seguire talk show e a smettere di leggere le sciocchezze che scrivono i giornalisti, perché sono nel pallone anche loro. Ci sono posizioni diverse che fanno capire che nessuno conosce veramente qual è la realtà. Questo è il problema. Io vorrei citare due esempi opposti. Allora, senti così, Bruno, visto che abbiamo già premesso il senso di questa trasmissione, abbiamo sentito le reazioni e con te cercherò di fare un punto diverso rispetto a quella che è la vulgata generale su questo fenomeno. Do un secondo il traffico, perché a me è un dovere istituzionale, e poi con te mi spieghi esattamente i punti e i correttivi che dal tuo osservatorio andrebbero fatti rispetto a questa notizia. Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024, vediamo se riesco a spiegarmi quello che stamattina chiedevo al pubblico. Nicoletti vergogna, sei il solito giornalista, fai parlare solo chi ha le tue idee. Io farei parlare tutti, ma ho un quarto d'ora, 20 minuti scarsi, quindi se faccio una domanda voglio una risposta su quella domanda. Mi scrive un altro ascoltatore: guardi che da piccolo negli anni 70 il terrorismo brigatista rosso, essendo capillare, l'ho visto in prima persona e so cosa si tratta. Ecco, questo volevo dire. Io ricordo la figura di Emilio Rossi, direttore del TG1, lo vedevo sempre, era un collega, un signore magro, assolutamente inoffensivo, gentile, con i capelli bianchi, mingherlino, girava con un bastone perché aveva una gamba completamente fratturata. Qualcuno, un ragazzo di buona famiglia, gli ha sparato una gamba e l'aveva massacrato. Perché? Perché allora si sparava tutti. Ecco, questo è lo stesso clima che proviamo oggi. Tutti possono essere nell'occhio del ciclone o nel mirino di qualcun altro. Questa è la cosa che sto cercando di far capire. Non mi interessa poi quanti giornali abbiate letto o quanti siti internet abbiate consultato per farvi un'idea sulle dinamiche internazionali. Sembra tutto facile, tutto scontato, ma non è esattamente così. Paolo, velocemente, poi Ballardini. Sì, buongiorno, sono Paolo. Volevo dire, io non voglio fare l'esperto in Medio Oriente, ho vissuto in Medio Oriente per molti anni perché i miei lavoravano lì per lavoro e quindi io sono cresciuto in quella cultura. Io sono preoccupatissimo perché da quello che posso sapere io, la paura che ho è che prima o poi ci toccherà anche a noi, cioè ci hanno colpito lì in Tunisia, ma io mi aspetto da un giorno all'altro che succeda qualcosa in Italia. L'unico paese che non è stato toccato dall'11 settembre del 2001, dove sono stati attaccati appunto in Inghilterra, Londra, Parigi, Madrid, eccetera. Io non capisco, il governo prende sotto gamba questa minaccia, questi ci hanno dichiarato guerra e se non ce l'hanno dichiarata secondo me lo faranno tra poco. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Io mi sento assolutamente, ho paura, nel senso io come altri per strada, può succedere in qualunque momento, in metropolitana, non si vede, non è vero che se le misure sono state alzate, io vado in metropolitana, potrebbe entrare chiunque, non parliamo agli aeroporti o alla stazione, potrebbe arrivare chiunque, non ci sarebbe... Io non lo so. Ha espresso il suo parere, Paolo. Grazie. Bruno Ballardini, riprendiamo il filo dove l'abbiamo lasciato. Allora, io invito tutti a non farsi prendere dal panico, perché è la cosa più facile. Il panico viene alimentato esattamente dai giornalisti che sono a loro volta nel panico. Se voi la smettete di abboccare, seguire quello che scrivono, forse cominciate a coltivare la lucidità. Basterebbe seguire internet, direttamente i canali dell'ISIS, unirsi del traduttore di Google, dall'arabo, eccetera, e seguire anche gli osservatori più attenti, come ad esempio Sergio Bianchi, che è italiano, che ha spiegato per primo che questi attentatori sono venuti dalla Libia, hanno trasportato le armi in una cassa da morto e sono entrati in Tunisia tranquillamente con la metropolitana, col trenino. Questo non l'ha ancora pubblicato nessuno. Non l'ho visto ancora in nessun giornale, se ecco. La prima volta lo sento dire. Dove è apparsa questa anticipazione? Su Twitter. Bianchi ha un'agenzia di osservazione e monitoraggio, lui è un orientalista, tra l'altro fa lo stesso lavoro identico che fa Rita Katz. Rita Katz, quella che vende in abbonamento con site Intel a tutti i giornali che abboccano a questo business le notizie che lei decide di mettere in giro, ed è scandaloso il copia e incolla che c'è fra media occidentali. Questa è la storia. Mentre ad esempio Guido Olimpio del Corriere della Sera, che da Washington manda le sue considerazioni sempre filo governative, racconta che invece la pista condurrebbe a Hakim al-Qaeda in Maghreb, ma questo non è dimostrato, mentre Sergio Bianchi mette il link a un documento arabo che rivendica l'attentato e spiega punto per punto. Se volete vi mando il link. Diciamo che se questa notizia trapelerà anche nel mainstream dell'informazione, avevamo detto a Ballardini, hai beccato ancora una volta. Un'altra tua, diciamo, lettura rispetto a quello che hai visto. Qualcuno ha detto ieri, i Twitter gira di tutto, c'era anche un tweet di un collega del TG5 che dice: al bersaglio erano gli italiani, colpiano gli italiani sapendo che c'era la nave italiana, e quindi tutti improvvisamente. Capuozzo ha detto: al bersaglio erano gli italiani. Sul suo divanetto con la birra in mano ha detto Capuozzo: il bersaglio erano gli italiani, e questo era diventata una notizia. Ma non è possibile, queste sono le sciocchezze di cui ci cibiamo e su cui ricamano dei giornalisti che non sanno fare i giornalisti, semplicemente questo. Quali fonti tu stai osservando in questo momento? Io sto osservando tutte le agenzie di intelligence che stanno in rete a monitorare i siti arabi e quelli che arrivano prima a tradurre i documenti e possibilmente anche i canali dell'ISIS. Non è vero che è stato fatto direttamente dall'ISIS, questi sono dei fiancheggiatori che Quello che ha detto la Popistelli questa mattina a Radio 24, aspettate a dire l'ISIS, ci sono varie piste. Esatto, esattamente questo. Quindi una posizione governativa perlomeno in questo momento è allineata con quella che è la razionale lettura delle fonti. Sì, noi dovremmo comunque più o meno intervenire in qualche modo in Libia, perché la Libia sta diventando la fucina di questi, la più vicina. Dimmi la tua ipotesi, l'idea che ti sei fatta te dall'analisi delle tue fonti. È una guerra di servizi. L'incertezza degli Stati Uniti è data dal fatto che loro hanno una presenza e una responsabilità in quello che sta accadendo diretta e non hanno ancora deciso una strategia, perché come si muovono si scoprono i giochi, questo è il problema. E con loro a cascata tutti gli alleati naturalmente rimangono fermi, perché se non si muovono gli Stati Uniti non si muove nessuno. Quindi sarebbe così cinica e così esasperata la guerra segreta, è sempre svolta su questi scenari, da arrivare a far sparare addosso a un autobus di poveri vecchietti pensionati in vacanza, tanto per dare un segnale di attenzione rispetto a un fenomeno che deve essere esaltato. No, queste sono cellule, diciamo, che vanno avanti da sole, sono i lupi solitari che poi raccolgono l'applauso degli organizzatori, eccetera, che stanno altrove. Noi possiamo aspettarci delle cellule che agiscano improvvisamente, ma è difficile, perché comunque qui si tratta di trasportare armi oppure fabbricarle sul territorio, che è altrettanto difficile per procurarsi materiali. Quindi il vero problema è alzare, essere sicuri che i nostri servizi stiano vigilando, e per il resto preoccuparsi fino a un certo punto, rimanere lucidi. Per favore, non fatevi prendere dal panico dei nostri giornalisti. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, anche a lei. Lei è veramente una persona a modo, mi piace molto, mi scusi, glielo devo dire. No, non c'è una coscienza in Italia di terrorismo, come non c'è una coscienza di quello che sta succedendo sul fronte del terrorismo economico, notizie che giornalmente arrivano di persone che rubano milioni di euro, non li restituiscono, ma vede, io vivo nelle Marche, vivo qui al centro delle Marche, ma le persone sono interessate al talk show, non c'è coscienza. Come dicevo prima, una rivoluzione culturale la possono soltanto fare gli eserciti di maestri elementari, e da lì manca proprio una coscienza, non c'è. Cioè, io capisco bene che se domani vengo a Milano e prendo la metropolitana, secondo me può saltare in aria tutto, ma non mi faccio prendere dal panico, ma è una cosa normalissima, può accadere, non è mai successo finora e le probabilità sono contro di noi. Certo, è una guerra, ma non c'è coscienza, le persone hanno in mente altro, c'è proprio il controllo mentale fatto da esperti cibernetici, ci stanno controllando mentalmente. Sì, adesso non vorrei arrivare al microchip del controllo, perché entriamo in un'altra dimensione. Io questa mattina, guardi, nel poco tempo che avevo, e contando sull'amico Ballardini, che considero un osservatore lucido e fuori dai condizionamenti, era soltanto fare un punto di riflessione. Ho dei monitor con un programma televisivo che è sempre a quest'ora, con l'audio abbassato, e vedo Sgarbi arrabbiarsi, strillare, e immagino sia per roba di politica interna, per difendere, attaccare lupi, cose del genere, e mi dico, il vero problema è proprio questo in questo momento. A domani.